Giorgio del Lago Maggiore. Giorgio, mi vuoi tu portare ad Ascona, ad Ascona sul Lago Maggiore? Col chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, potremo mangiare risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio, Giorgio. Un ristorante in piazza. Cameriere? Signore? Signorina? Per favore. Un espresso? No, vino. Oh Giorgio, Giorgio. Oh Giorgio del Lago Maggiore. Giorgio, mi vuoi tu portare ad Ascona, ad Ascona sul Lago Maggiore? Col chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, potremo mangiare polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio, Giorgio. Una notte con la luna, una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, rose, mimose. Oh Giorgio, Giorgio del Lago Maggiore. Ad Ascona, ad Ascona sul Lago Maggiore. Mio caro, mia cara, addio, arrivederci mia bella bimba, addio, ciao, Giorgio, oh Giorgio, Giorgio.